My father's name was Elijah, and my name is Ragnar Pizer. Ah, ok. Ah, ce l'abbiamo fatta, eh? Ci siamo. Anzi, ce l'ho fatta. Grazie alle dritte mie. Meno male, beh. Allora, ben arrivati anche per questa prima puntata dell'anno di Ragnar Pizer. Non ci avete perso. Il Bruno Pizzul di Controradio. Sì, sì. Cioè, quel fogliolino davanti e le cuffie. Mi sento un po' ridicolo. Allora, intanto buon anno a tutti, perché questa è la prima trasmissione dell'anno nuovo. Esatto, la prima. Tutti ci credevate morti con la fine del 2010. Dio santo. Ci credevate licenziati. E invece ancora no. Buttati fuori a calci dalla radio. E invece siamo ancora qua per le vostre orecchie. For your con le orecchie. For your musical pleasure. For your musical pleasure. Ricordiamo subito i nostri contatti, il nostro telefono, visto che a questo giro sono riuscito a segnarmelo. Meno male, vai. Vabbè, quindi se qualcuno ci vuole telefonare è 055 73 999 33. È anche facile da ricordare a memoria. È anche facile, esatto. Infatti sì. So perché ancora l'ho imparato. Vi darò anche la mail, ma tanto non ci scrivete perché non ci volete bene. È info.ragnampaisa@gmail.com. Se magari... vi prende bene scriverci. Ha visto mai. Ha visto mai. E il nostro blog di riferimento fa capo lì, è ragnampaisa.blogspot.com, dove chiaramente potete andare a scaricarvi le vecchie puntate, a scaricare dei bei mix. C'è anche il calendario della cucinotta da scaricare. Esatto, c'è anche okay. Il calendario. Allora ci andrò di sicuro. Tra l'altro vi avevamo detto di tenerlo d'occhio. E infatti stiamo lavorando per buttare un sacco di cose nuove. Abbiamo detto una bugia. Avevo promesso di mettere su un mix e poi non l'ho messo. Però vabbè, insomma, recupereremo settimana prossima, sì. Speriamo. Magari stiamo, come abbiamo fatto, dei mesi senza pubblicare mix nuovi. E poi ve ne mitragliamo due o tre uno dietro l'altro. Esatto, esatto. Allora, un saluto a Andrea Mi, che non ho idea che fine abbia fatto, ma lo Andrea, salutiamo. Andrea, facci batti un colpo se ci sei. Ovunque sia, stacci bene. non sappiamo se è tornato da Parigi, non sappiamo se... Non si sa. Vabbè. C'è Bubu, i primi 20 minuti. Yo! Between the north and south, at a small outpost called Red Clay Village. Fuck y'all niggas thought, huh? What you thinking, bitch? Are you stupid, son? Must be stupid, kid. What the fuck is wrong? It's the Woo, bitch. Ain't got a clue, bitch. Tie your shoe, bitch. Get the fuck back before we break a f- Listen, trying to tell y'all niggas. Give you a fair warning. Just a chance to live so you can see your kids. Yo, son, nah. Before I split your wig, I'd rather feed you this. But you ain't wanna eat it. So now you got the feeling. My accused of futuristic linguistic mass fabric is a mixture of habits. Plug them in. Check it from the underground producers. Turn your face stone like Medusa. Slap dick on a wicked bitch. On righteous ones, we give sons. Those who put her turn nuns. I be kindled the flame. What's the name? Bobby. Make it a hobby. Smoke the honey dip, got my throat groggy. You doodle brain, dirtbag, derelict, dumb fuck. What the fuck is wrong with you, dickhead? Numb nuts. Just because you made a song or two. What's the balance do on your royalties? Record companies spoil me. As the winds hot oil me. Fuck that savage, back up. Wu-Tang step inside the club. Niggas might act up. One potato, smack you like the crossfader. Rap data, goes back to pissy elevators. Escape the projects, living inside the skyscraper. Fuck that, I'm taking back the 40 acres. The cream of nature. Bobby. Huh? Yo, my Eve caught one at him 12. I got arrested, first she protested. But on the seventh son, day, I always had the power. Before the Maduri sour of red cherries, hereditary trait. Seeking salvation like the cranberries. Wrote murder with Angela Lansbury often. Till my biological clock stops and my casket falls. Eat cell ticks like Boston basketball. See, Austin was asking y'all, is Razzcast the last to fall victim for wearing no mask at all? No gimmicks, just me being me. But you ain't bending or offending me. Cause anyways, Hennessy used to be a better friend than me. But I had to stop drinking so many pints. Why? Cause the tendency to forget, it ain't baseball. America's favorite national pastime is white supremacy. Never seen a nigga granted clemency. My metaphors is metaphors. My styles go up in your raw dog, little boy. You get fucked like pedophiles. When it's all said and done, I'ma retire to an island in the Caymans. Enslaving Caucasians, living off your mama's life savings. I take it all in stride. Dennis Rodman's laced to the side. This nigga glide like Clyde. My hands was tied. Silent cry scream genocide when 2/3 of the planet died in the end. The end justifies the means. The end is power. Power corrupts. Absolute power corrupts. absolute. Young black men, let us begin. The end justifies the means. The end is power. Power, power corrupts. Shit. Absolute power corrupts. Absolutely. Young black men, let us begin. The end. But for the average person out there, they've never heard this term. Jordan, explain to people what Illuminati means. Well, it comes from, the word Illuminati comes from the Latin word illumini or illumin, which it means light. And so anyone who is enlightened or brilliant, and of course those who are the most enlightened are called brilliant. Well, it comes from Lucifer. Well, what we're really talking about here is Lucifer, the fallen angel, and they have picked up on this, the Illuminati. And if you take a look at some of the Chevys, now they're called the Illumin. Illumin. to prepare the fish. I expect you'd like to know about frogmen. Yeah. They live on fish and catch them by diving onto them from a great height. Deeper and deeper and deeper and deeper, gliding down through the dark green water. He could breathe underwater because he had amphibious nostrils. On the way down, we passed hundreds of trout of different sizes. Trout are freshwater fish and have underwater weapons. Don't you go to the end. Trout are very valuable and immensely powerful. Keep away from the trout. Why should it be that the fish in the sea are all unable to sing? Just listen to me, young fellow. What need is there for fish to sing when I can roar and bellow? Trout. My fish. Insomma, vogliamo ricordare un'altra volta il nostro numero? Madonna, Ducci, cioè, te proprio non vedi l'ora che chiami qualcuno stasera. Non, no. Non chiamerà mai nessuno. No, è che mi piace, capito? Mi piace fare. Ti piace di numero? Oh, stasera trovi il numero, allora lo dice 20, nostro... 20 volte il numero di telefono. Allora, il nostro numero, non ve lo dico. 055. Vai, buono. Ci amo, sicuro, sicuro. Già squilla il telefono. Si sente che sta già cambiando mood, perché che è entrato Biga in console. intanto c'è... Entra un delay di 3 km. Sì. Intanto c'è anche il Dirty Bastard, entra in risonanza. Chiaramente. Insomma, che devi dire? No, io volevo giusto parlare, perché l'altra volta l'avevo... No, non l'altra volta, forse la volta prima, non ricordo. Avevo suonato un paio di pezzi di Morgan Zarate, che è un produttore. Mm-hmm. Questi due pezzi che ho suonato faranno parte di un EP che uscirà per Hyperdub il 24 gennaio prossimo, ed è il primo 12 pollici di un futuro LP che uscirà su Hyperdub. È giusto qui, perché l'avevo suonato, quindi buttati lì. per gli hyperdubbistici, watch, insomma, out. Watch out. Magari ora dopo risuono un pezzo, così vi rinfresco la memoria. Storie di pre-release? Certo, sempre pre-release, sempre promo. Insomma, dopo magari metto un pezzo, così rinfresco la memoria. Mm. E poi suonerò anche qualcosa di un paio di etichette legate, diciamo, alla scena grime di adesso. Sono due, diciamo, fra le etichette più forti, perché sono una l'etichetta di Terror Day, una è l'etichetta di Terror Ninja e un'altra è l'etichetta di Elijah e Skilliam, e questi personaggi in quest'anno hanno avuto un bel riscontro rispetto a quello che poteva essere il grime negli anni scorsi. Tutti lo davano come morto, invece c'è stato il ritorno del grime, più che altro c'è stato il ritorno delle version. C'è stato il ritorno delle version grime, cioè sono uscite un sacco ci sono state un sacco di uscite di dischi di grime strumentale. Sono l'hard drive e la Butters. Butters sconsigliata a chi c'ha problemi, insomma, di... No, Butters come burro. Sì, infatti, dicevo sconsigliata perché c'ha problemi di colesterolo. Di colesterolo, magari non è roba per voi. Tra l'altro, se andate sul blog, mi sono sempre scordato di dirtelo, che c'è una maglietta, hanno fatto la maglietta che con il logo con la panetta di burro. No, che è veramente figa. Veramente figa, sì. Andrò a vedere. Andrai a vedere. Quindi non vi sto neanche a dare siti, riferimenti, tanto dopo troverete tutto sul blog. O se no, andate su Google, come fanno tutti i cristiani di questo mondo. E scrivete. Tanto al giorno d'oggi su Google scrivi il nome di una persona, te esce fuori anche il gruppo sanguigno. Esci fuori te direttamente. Vabbè. Basta con le bischerate, vi lasciamo a questi 20 minuti di Biga e ci risentiamo fra un po'. Biga! standing around with the Ronanity Blues. Well, you got no choice. How can you win or lose? Say that your heart is Bam bam questa. Bam bam bam bam bam bilan. Bam bam. In realtà è sta, si chiama Stalag. Insegnami, brother. E guarda, lascia fare. Io se le becca suona, lascia perdere. Viri viri. No, mi sta facendo cutting con i 45 giri, è chiaro. Senti lì. Fa la batteria. Allora, ma vogliamo ricordare il numero di telefono? Dai, ricordiamo. 055 73 99933. Come fate a sapere? Non è che l'hai trovato? Me lo so scritto, l'ho visto prima sul sito. Che credevi? Maledetto. Fa bubu con la fascia di Fanatta. Disco degli Screaming. A bestia. Io volevo ricordare, visto che tanto non stiamo solo temporeggiando, si può dire cazzeggiando. Sì, si può, stiamo guadagnando tempo. Io volevo buttare lì giù una lista della spesa di podcast che magari vale la pena andare a scaricarsi e sentirsi. Vai. Nelle varie webzine. E per quanto riguarda Accelerator, che come sapete o come non sapete, il come sito non è... sapete è roba buona. Il sito è xlr8r.com, si pronuncia Accelerator. Vi potete scaricare fra gli ultimi podcast che per conto mio sono molto validi: One Man, Terror Danger, Elijah Skilliam e Zed Bias. Poi se andate su Fact Magazine vi potete prendere Book DJ Rock, Iconica e il podcast degli Horsepower, che è veramente fico. È veramente fico perché parte da funk, cioè mettono proprio a funk, poi mettono hip hop, mettono house, insomma fanno un bel rimescolone, però lo mixano bene. Alla fine Benny Hill è un gran genio. E poi Resident Advisor, scaricate una bomba di podcast di Tiger and Woods, che sono tutti una serie di loro re-edit. Per chi non conosce Tiger and Woods va rimandato a settembre. Ben UFO e Terror Danger. Basta, ho finito con la lista della spesa. Ottimo. Tommy sta intanto sta sclerando, quindi lo possiamo lasciare andare per i suoi 20 minuti. Them can't come and sweet because them free the Babylon. Them don't live a house, say them live on woodland. Say them we cut off me yet put in a curse in pan. The thing with the smoke ain't no fit for you, man. But no me come a man me get fi understand. Say Rasta is life and salvation. Say Rasta is right and the Babylon wrong. The Babylon would never hurt a Christian. But the slightest thing them would done kill Rasta, man. I beat him bad and lock him up a station. It's written in the Bible that book is wrong. And still the Christian them this a eat Trenton. You have Anglican and you have Christian. You have the Methodist and the Pocomanian. Then you have the Muslim and the Rastafarian. Which one are your religion? Hail German, come and say as a little youth I was a small youngster. They tell me that the sky was the house of Jaja. But no me come a man and come a read scripture. Me find out that Jah deliver Africa. That's why mama never want me smoke the ganja. When me smoke it, me find out me culture. Come me say give thanks and praise unto Jah. Hello. We out to east to check Arigis, but Arigis I'm the one about the beast. But he comes and play my brand new release. He comes and play me, look at this, make a jump and twist together. Don't be the plump, plump, plump, plump, show my love. Oh wow, do it! I see from me, we see him all round it. Bound it, leave my bound it, leave Rocky them down it. Hey, come here, cause come here, them down it. Leave for me, girl, all in. Man, you better leave for me, girl, all in. Not you, she live over the housing skin. Man, but she cook and she was very clean. Man, and if you hold on for her and she have a scream. Man, you better leave for me, girl, all in. Oh, Lord, leave for me, girl, all in. Eh? I saw she love me, I saw she want me. She saw she love me, me say she want me. You better leave for me, girl, all in. You know that girl, she's mine. No, yellow, she belongs to me. No, Metro, she's mine. You know why she belongs to me? Every night she walks right in my dreams. Since I met her from the start, I'm so glad that I'm the only one who's special in her heart. The girl is mine. Hey, you got the goddamn bird is mine. Mine. I can understand the way you think, saying that she's yours, not mine. Sending roses on your silly dreams would be just a waste of time. 'Cause she's mine. Because the goddamn girl is mine. Don't waste your time, Peter fight. Because the goddamn girl is mine. Show them say you're jumbo. Don't make like a guy come jumping on your chest. Cause in your life, he's gonna take set. Sooner or later, your girl him request. And in your life, he'll be your best. Just be Rambo and show them say you're Jumbo. You got to be your Rambo and show them say you're Jumbo. Hey, Rambo me Rambo, oh Rambo me Rambo. When you take the lead, make sure you can maintain it. Oh God, watch it. I am a spring dusty, a long distance runner. So why nobody try test me? Spring dusty, spring dusty, a long distance runner. So nobody try test me. Watch it. I can lead and hold on, or come from the middle of the pack, or even make a move from the back. Watch it. Like a champion horse bubbling on the track, I'm giving everything I've got. No make sense, you jump up on. If you can't hold on, up man coming from the back and then kicking up a storm. Looking over your shoulders, the crowd is on the heel. You're running out of stamina, it start to reveal. You shouldn't test the champion, now you're eating dirt. I'm gonna show you up for what you really worth. Watch it, sprint as the long distance runner. So why nobody try test me? Say I'm a sprinter, stay a long distance runner. So why nobody try to sweep? What's it with sprinter, stay a long distance runner? Can't test me, no way. What? Now this is the version of the Rock Nation with a solid vibration. You are not far from the station, so take out your identification. Yeah, yeah, yeah. No one ever can understand it. The way the system planned, there's no hope, no chance, no loophole, no escape for a sufferer man. I just the way that the Babylon planet, for right to fight each and every one every day. I don't follow that little Satan boy, I need to chill myself, don't really gotta lead you astray. Still I'm putting up a resistance, yeah. I'm gonna work it out, work it out. Know I'm putting up a resistance. Say no matter what the Babylon say, some say that when the children never go astray. All we got to do is to follow my feet. You hear me till big, I'm gonna kneel down on my knees and pray. Sometimes the pressure make me feel like holler when every sign says no way out. Breaking my back to make an overtime dollar. You material that just goes from man to mouth. Still I'm putting up some resistance, baby. I'm sure we're gonna work it out. You hear me till you come to. I deal with the distance. discipline. Discipline, char oil. Come on, then, so used to be my lover. All right, young. Now she bar with clover. Come on, then, used to be my lover. This girl now, she bar with Sandra. All right, then. At night, they're on the same. What they doing? Doing things that are unclean. All right, then. Just trying to really, really make a meal. Come on, then. She stay with her lover. Alright, John. Give her everything she want. Now she don't really, really understand. Yeah, she leave and gone. Tipung, again. Used to be my lover. Alright, girl. Now you part with clover. Tipung, girl. Used to be my lover. Now she part with the one Sandra. Alright, girl. Why me a tell you, Bridget? No more will I run. No, no better than yard sin. No. But sometimes you have to go out to the fields and look it for the kids them sin. Why me a tell you, sit down in a place too hard, you know? Babylon system is a fraud. Talk to them, my brethren, talk to them. It's been a long time. Have been away from home. So very it's long. Been a long time. No more will I roam. No more. I would never stay away. No more will I roam. I would never, never stay away. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Long time me out there in the Babylon a suffer. Seek for the gold and a look for the treasure. A long time me out there in the Babylon a suffer. I see the one of them a fight against one another. Me tread the rocky road with blood, sweat and tears. Go through wars, who and me to have no fear. Have guide and protection each and everywhere. Fi elevate myself and come back down here. Me a fi tread through all kind of weather. Just fi help out me two little brother. That's them not divide, them must stick together. When them stick together, me say things will be better. It won't be long with you. You swaying beneath the blue. You got to go on back home, yes. And I tell them about your adventures too. I'm coming home. Rastafari, no. No more will I roam. I would never, never, never stand your way. I would never stand your way. I'm coming home. No more will I roam. Y'all hear me, Virgin? Oh, y'all hear me, man? No, me say no, me return. Say them know me get no wiser. And me get wiser, future must get brighter. But future get brighter, connection get wider. Could I hide or hide, I know maybe or neither. Me want them to know, say a jammy provider. I am a leader, poor people feeder. If them try a thing, a revolution in ya. God know me return and them know me not leave ya. I'm coming home. Why me tell you no way no better no than ya. No more will I roam. Because my Babylon system is a fraud. Attenzione, Duccio in the mix. La mixo, la pesce. L'ha voluta mixare, no? Incredibile. E Zozo. Maledetto. Sono un po' emozionato perché sono stato al microfono con tutti, ma te vecchio, it's the first time. Ma infatti non so cosa ci faccio. Assolutamente. Sei però... stato obbligato, mettiti le cuffie però... e vieni al microfono. Ci piglia bene. Ma sì, in dai. Senso largo. In senso largo, sì. Come Giuliano Ferrara. Vabbè, vi siete sentiti così, giusto per la cronaca, un po' di roba 80, roba dub style, dalla Jamaica. Michael Palmer, vabbè, cioè già non mi ricordo più che caspita ho messo. Domani ve lo scrivo sul blog. C'ho una memoria fulminante proprio. Da una stanza all'altra già c'ho la tendina di sangue sul cervello. Il buio. Laura Palmer, Michael Jackson. In the io name. Mi ricordo quelli. In the name of Laura Palmer. C'era l'ultimo, vedo che sei stato attento, c'era l'ultimo di Laura Palmer insieme ai Pooh. Non so se forse l'hai riconosciuta. Insieme ai Pooh. Dai tastierista. Oh, ma che... Senti va? Attenzione, sirene. Brivido. Come disse Ulisse, attenzione c'è le sirene. Vabbè, con questa chiudiamo i battenti stasera. Ma che si fa? Si anticipa ai brother la storia del ciccio belga della settimana scorsa? Potremmo buttarla lì, poi settimana prossima magari... Vai. Tradotto in italiano, praticamente la prossima settimana sarà guest in the mix. Esatto, iniziamo questa... Non è un appuntamento fisso. Ogni tanto, quando capiterà occasione, faremo... Quando ce li mandano. Quando ce li mandano. Maledetti, mandateli. Quando qualche caro amico ci manderà dei guest mix, ovvero dei mixettini di 20 minuti, così, da mandare in trasmissione al posto di un set di uno di noi, poi, insomma, a girare. Settimana prossima iniziamo alla grande con una mixatina internazionale. Dal Belgio, giusto? Da Bruxelles, Fabi. Che ci propone un mix di 20 minuti di prog italiana, capito? Il belga ci viene a insegnare la prog italiana. Io ci sto dentro. Da paura, sì. Anzi, prende pure bene. Prende da Dio, sì. Ora bisognerebbe trovare tipo un giapponese, non lo so, che fa ci fa un mixettino di roba Nassau. Un mixettino di punk indipendente italiano, eh? Sì. Irebbe bene. Nasty. Un mix di Milva. Nasty. Nasty. Vabbè, basta. C'è Duccio fino alla fine. Che ora è? Ma si è fatto presto stasera? Sono le 22:06. Ma hanno fatto suonare 5 minuti. Ma è sempre colpa di Duccio. Vabbè, è colpa di Duccio. The Dux. Noi ci sentiamo settimana prossima, as usual, il lunedì dalle 21 fino alle 22:30. Mi raccomando, non accendete la radio alle 22:31 perché poi c'è il telegiornale. Ci sentiamo. Ciao! Thank you. it out some way, larger than life. When I was a youth, I used to blow my horn like a raven. Let me say, when I was a youth, I used to blow my horn like a raven. Yeah. Shabba Fransky bar, I was too young to go rumble, but me still hit the record shop to find jungle. Now I'm murdered, free proper like wolf and helicopter. CS gas flow, bro, I'm a showstopper. In the paper for digits, but me still got to deal with the matter, me deal with it proper. When I was a youth, I used to blow my own like a raven. Young, I'm not a kid in me. Also, I'm in the club acting like it's telepathy. Cause jungle, mania 94. I was in primary school playing doors. Sure, I was just bored. I'm a hit like my UK tour. Things change, it changes, and I praise the Lord. I was on the football coach, my Walkman on like 90 boys. Singing it, na-na-na-na-na. When I was a youth, I used to blow my horn like a raven. down, sneaking down, sneaking down a long, lonesome road. I was sneaking down, sneaking down, sneaking down a long, lonesome road. But you were sleeping in a soul, precious love. You were sleeping in a soul, precious smile.